miei, non faccio più parola. Volete andare, sì o no? Noi partiremo assieme, marito e moglie. Come marito e moglie? Non intendo. Ci sia andata la mano. Voi? Il vetturino dice se vuol partire adesso. E partiremo adesso. Ed io resterò qui con la signora. Spassi e divertimenti in vita vostra non avrete da me. Serrata qua, pagherete la vostra infedeltà.